Basterà che io vada lì sicuro di me, che cerchi di assomigliare a come loro si aspettano che Giovanni sia. Insomma, sarà una piccola recita a soggetto, tutta basata sulle emozioni invece che sul testo. Io sono qui, di Matteo Caccia. Sono le 16:07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Dunque camuffiamo la voce, molletta, molletta, molletta, patata, patata, apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto, lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora? Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, eh? Non capisco. Faccio l'accento svedese. Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Nella conca svedese. Muovi! Vado, sì, è lei? È che ci sono diversi modi per farsi passare per un'altra persona. Spesso non servono né la conca di rame, né la patata in bocca e tantomeno l'accento svedese. Basta una firma, ad esempio, un documento, una foto. E chiunque può diventare qualcun altro, anche per poco. Per un giorno, per un'ora, 5 minuti. Perché effettivamente non è che ci si pensi, però è sufficiente avere messo una volta la firma del proprio padre a scuola per una giustificazione, o quella della madre per cambiare un assegno, magari col suo consenso, per avere preso anche solo per un attimo la loro identità. Non serve essere dei truffatori o dei delinquenti. Tutti prima o poi si sono trovati nella condizione di prendere le sembianze di qualcuno o di prestare le proprie competenze, ad esempio, all'identità di qualcun altro. Perché un amico ne aveva bisogno, come nel mio caso, o perché eravate voi ad avercelo. Ci sono molti modi e molte occasioni per farlo. Quando si usa l'identità di un altro per entrare allo stadio, ad esempio, o a un concerto, quando si finge di essere una persona vicina a noi per fargli passare un esame o superare una difficoltà. Non sto parlando solo di cose illegali, ma anche di rispondere al telefono per conto del proprio capo, ad esempio, o farsi passare per la donna delle pulizie per non aprire ai testimoni di Geova, oppure far credere a tutti che eravate una persona importante in un luogo in cui non vi conoscevano, o una persona meno importante di quello che eravate, in un posto in cui nessuno sapeva chi eravate. Se avete, anche per poco, anche per un'inezia, preso i panni di qualcun altro e volete raccontarmelo, io sono qui. 800 24 0024, 349 238 6666. Ci sono un sacco di casi di cronaca, ovviamente, che sono, proprio perché sono di cronaca, sono casi gravi. Li ho chiesti prima a Viola e me ne ha tirati giù un faldone, ve ne leggo alcuni, ma che già conoscete, sono di dell'anno scorso, di 2-3-4 anni fa. Falso finanziere, falso vigile in manette, da tenente colonnello della Guardia di Finanza a vigile del fuoco. Antonello Cappai, sardo, andava vestito da vigile del fuoco e diceva: questa caldaia non è a norma, qui c'è rischio esplosione, mi dia 530 euro e le metto tutto a posto. Falso medico, pena ridotta al falso medico che diceva di essere un oncologo. Beh, questo quindi spero non gliela riducano la pena. Questo è il mio preferito: rappresentante di abiti si finge medico. Un rappresentante di abiti, di abbigliamento, per anni si è spacciato medico adibendo il proprio appartamento a studio con tanto di costose apparecchiature e dispositivi medici. L'uomo non aveva mai conseguito la laurea, è stato scoperto e denunciato per esercizio abusivo della professione. E poi questa, no, è questo il mio preferito: ha ricostruito il torrino di Foligno, ma era un finto ingegnere. Bonini, che succede a Foligno? A scoprirlo un dipendente del comune, dopo 20 anni di attività, ha confessato davanti al magistrato. E sapete perché l'ha confessato? Io ci credo a quest'uomo. È perché lui non aveva passato un esame, non ha avuto il coraggio di dire ai genitori che non l'aveva passato, e di lì ha cascato tutto il resto. Si è laureato, sì, mi sono laureato. Insomma, per una piccola bugia è andato avanti per 20 anni. Lui dice: un esame non superato, un sasso trasformato in una valanga, una vita in un bluff, un'esistenza virtuale. Poveraccio, mi fa quasi di tenerezza, perché quando gli eventi ti travolgono è veramente più forte di te. 800 24 00 24, 349 238 6666. Ripeto, non serve che siate delinquenti, anche perché magari siete in carcere e non potete chiamare, o magari siete usciti e invece potete chiamare, meglio ancora. Però bastano cose piccole, come Andrea che mi scrive: mi faccio passare per il mio capo praticamente ogni giorno per filtrare rompiscatole. Rossana: quando ero piccola avevo la stessa voce di mia sorella e spesso per dispetto o per diletto mi facevo passare per lei. Vabbè, questo è abbastanza facile. Adesso invece che è mia figlia ad avere la mia voce, lei si spaccia per me nelle telefonate assurde dei nonni e io mi faccio passare per lei quando chiamano pedanti operatori dei call center e dico la mamma non è in casa. Mia nonna lo faceva sempre, quando rispondeva al citofono diceva: guardi, sono la donna delle pulizie, la signora non è in casa. Grazie. Raffaele, io vengo scambiato sempre per mia madre, devo preoccuparmi? Direi di sì, Raffaele. E poi c'è questa, Tommaso. Credo sia proprio Tommaso perché con una M sola. Al ristorante, al cinema, ovunque non sia poi necessario mostrare le generalità, io e un gruppo di amici prenotiamo sempre spacciandoci per Bruno Altare. Bruno Altare è l'ex marito della compagna di un nostro caro amico che è stato la causa della separazione e che per amore si è trasferito dall'altra parte dell'Italia. Siamo proprio degli stronzi. Se ho capito bene, il loro amico sta con una donna che era sposata con quest'uomo e ne ha causato la rottura. Loro danno sempre il nome di questo tizio. Che merda. Ce n'era un altro che era divertente. Francesca, questo riguarda sempre appunto voci che si somigliano. Un ragazzo cotto di mia sorella, appena scaricato malamente per qualche motivo al liceo, una volta mi chiama, mi tiene 20 minuti di agonia al telefono, scusandosi addirittura anche per la mela colta da Adamo. Arrivato alla scusa finale, sull'oro della lacrima, io perfidamente rispondo: guarda, io ti scuso anche, mi sembri perfino una brava persona. Se vuoi però adesso ti passo Giorgia. Credo che sia ancora sotto shock. 800240024 349238666. Veramente qualsiasi caso in cui voi vi siete fatti passare per un'altra persona, anche per scherzo. Ovviamente, anche per gioco, perché avete voglia di prendere le sembianze di quella persona lì e magari insomma farla a qualcun altro. Rimaniamo nel limite del legale, ma anche no, però, perché ma chi se ne frega, se capita anche no. Ovviamente sotto falso nome diamo a tutti il nome Paolo o il nome Paola, in modo così Paulino Corleone contento. 800240024, perché stiamo raccontando tutto ciò? Perché questa mattina siamo arrivati al dunque. L'avevo detto che mi piaceva l'idea di prendere l'identità di un'altra persona per un po', no? Ed era vero. Però a volte mi pare che il destino mi prenda troppo sul serio. Quando l'altro giorno sono arrivati gli ispettori per controllare che Giovanni Denaro fosse sul suo posto di lavoro e io sono stato costretto a nascondermi nel cesso, ho capito che forse non sempre si può fare quel che si vuole e passarla liscia. Gli ispettori hanno promesso che sarebbero tornati stamattina, per cui ho passato tutto il pomeriggio di ieri a immedesimarmi in Giovanni per fare la sua parte questa mattina. Un po' mi aiuta avere un passato d'attore, però dall'altra parte mi mette in difficoltà perché non ho un copione, non ho un regista. Non so che cosa devo dire, non so come devo dirlo soprattutto. In più io Giovanni non lo vedo da tanti anni, ci ho giusto parlato un paio di volte qualche settimana fa. Come faccio a fare finta di essere davvero lui? Poi però ho pensato alla figura dell'ispettore bibliotecario. E non so perché, ma mi sono venuti in mente i libri russi. Ci sono sempre personaggi che devono rappresentare la burocrazia e i suoi funzionamenti misteriosi. Gente che ha come priorità far vedere di stare facendo il proprio lavoro e di farlo bene. E anche se in realtà poi non è che devono farlo per forza bene. E in più questa è gente che del signor Denaro ha una fotografia, un fascicolo, niente di più. Basterà che io vada lì, sicuro di me. Cerchi di assomigliare a come loro si aspettano che Giovanni sia. Insomma, sarà una piccola recita soggetto, però tutta basata sulle emozioni, invece che sul testo. Ieri sera mi sono inventato un Giovanni Denaro, tutto mio, davanti allo specchio. Per fortuna assomiglia abbastanza alla foto che c'è sul badge, nella quale è vestito malissimo. Sono dovuto quindi partire da quello, dai vestiti. Dovevo mettermi giù da bibliotecario, insomma. Quindi mi sono procurato una giacca di velluta grigia, da abbinare a una camicia col colletto coreano e un gilet marrone, le Clark e dei jeans. Ah, e poi anche un paio di occhiali rotondi. Insomma, avevo tutto e mi sentivo pronto. A quel punto però mancava il carattere. Giovanni era un introverso, però alla fine questo loro non è che potessero saperlo. Però dal cognome e dall'anagrafe sapevano che era siciliano. E allora ecco che mi sono inventato una leggerissima inflessione dialettale. Di quelle che vengono solo fuori solo in certe parole, no? Che alla fine sono tanti anni che vive a Milano. Per addestrare la mia bocca a quei suoni, ieri sera mi sono messo a leggere un po' di Camilleri e mi sono anche riguardato Il Padrino, che so tutte le battute. Però ho scelto di vederlo in inglese, perché così lavoravo sul suono siculo e non sull'esagerazione dei doppiatori italiani. Ieri ho costruito un personaggio, e l'ho costruito bene. There freedom hangs like heaven over everyone. Ain't nobody knows what a newborn holds, but his mama says he'll walk on water and wander back home. Stamattina mi sono svegliato presto. Ho studiato le province della Sicilia, con particolare riferimento alla zona dove il cognome Denaro è più diffuso. È la zona di Ragusa. L'ho scoperto con un sito che si chiama gens.it. Io Ragusa Ibla me la ricordo. È un posto misteriosamente bello, dove un palazzo su due è protetto dall'UNESCO. Ho pensato al cioccolato di Modica e mi sono immaginato la mia famiglia originaria di Noto. Mi sono concentrato sulla mia bella moglie tipo Claudia Cardinale e sulla mia carriera di giovane calciatore finita per un infortunio al ginocchio in una partita contro la Primavera del Catania. Insomma, avevo fatto un ottimo lavoro sul personaggio e mi ci ero immerso completamente. Stamattina ho preso più medicine di un trapiantato di pancreas, avevo paura che la mia esofagite mi rendesse un handicappato inabile alla vita normale. Però ho scoperto una cosa meravigliosa. Ho scoperto che, come tutti i sintomi psicosomatici, anche l'esofagite da reflusso, di fronte a un problema vero, scompare. Dico davvero. Cioè, se stai lì a pensarti addosso, il tuo corpo ti segnala che sei nel posto sbagliato, nella modalità sbagliata, e che devi darti da fare per cambiare la situazione. Quando invece si affaccia un pericolo, essendo noi ancora degli animali, il corpo si prepara a difendersi. È diventata super efficiente. Scompaiono le cervicali, il mal di pancia, svanisce l'ansia, diventi Superman. Ecco, stamattina ero un super uomo ragusano trapiantato a Milano per fare il bibliotecario e ieri mia moglie Claudia non stava bene, ma era tutto ok e presto avremmo avuto un bambino. Ne ero convinto io stesso, tanto che al bar mi era perfino venuta una certa voglia di granita al caffè con la panna. Ciccio e Nonna Papera stamattina erano tesi, però quando mi hanno visto con la giacca di velluto e gli occhiali rotondi hanno sorriso e si sono tranquillizzati. Verso le 9 abbiamo cominciato a lavorare, come sempre, senza dirci nulla. Nonna Papera mi ha avvertito che questi ispettori sono abbastanza gentili e comunque la cosa positiva è che non avevano il permesso di chiedermi documenti e nemmeno avrebbero potuto interrogare le persone ospiti delle sale studio. Potevano parlare solo con noi. La mattina passava, io tra me e me canticchiavo le canzoni di Carmen Consoli. Pico de Paperis, la ragazzina del giovane Holden, quella delle pulizie e noi. Ognuno era al suo posto. Mancavano solo gli ispettori russi. E come sempre accade quando ti aspetti lo tsunami, lui non arriva. Perché le cose brutte succedono solo quando non sei pronto. Verso mezzogiorno però, mentre pensiamo che ormai tutto andrà bene, appare dalla scala un tizio, uno che non avevo mai visto prima. Ha un cappello blu e una divisa di ordinanza, ma non capisco di quale corpo. Sembra un maledetto controllore del tram, di quelli che ti fanno prendere un colpo ogni volta che li vedi la fermata. Ecco, e lì ho pensato, merda, ci siamo. Quello viene dritto verso di me e mi dice, Giovanni Denaro? E io rispondo, certo, mi dica. C'è una raccomandata per lei. Era il postino. Firmo, ritiro e apro. Ciccio e Nonna Papera mi guardano da lontano, sono preoccupati. C'è scritto, ciao ragazzi, qui a Valencia tutto bene. Domenica torniamo e lunedì sono al lavoro. Vi abbraccio tutti, Giovanni. I will live my life as a lobsterman's wife on an island in the blue bay. He will take care of me, he will smell like the sea, and close to my heart he'll always stay. I will bear three girls, all with strawberry curls, little Ella and Nellie and Faye. While I'm combing their hair, I will catch his warm stare on our island in the blue. When he walks right past me, then I finally see on this bar stool I can't stay. So I'm taking my frown to a far distant town on an island in the blue. Ciao Matteo, quante note di demerito ho firmato usando la firma di mio padre alle scuole medie. Sul momento ero contento, poi me ne pentivo, ma adesso ne sono felice. È meglio aver firmato una nota piuttosto che un documento più importante. 349-238-6666, insomma abbiamo capito, la firma di genitori è la cosa più semplice, ma... Ciao, sono Ale, ora studio medicina a Pavia, ma quando avevo 15 anni fingevo di essere un sondaggista del Corriere e chiamavo in tutta Italia chiedendo se in famiglia avessero tossicodipendenti. Ma perché? Non capisco perché. Falsa tecnica del suono in tuta per avvicinarmi a Brian Ferry in un concerto di Roxy Music anni fa a Barcellona. Il mio inglese e il mio spagnolo mi hanno aiutato. Una volta ho fatto un esame universitario al posto di un'altra persona. Ecco, questo credo che sia proprio illegale. Credo che sia penale, forse, no? Una volta al posto di un'altra persona e ho preso il massimo dei voti. Quando poi dovevo fare lo stesso esame per me, non sono più riuscita a superarlo e ho dovuto aspettare che cambiasse il docente. Ah, è legge del contrappasso, si chiama, dalle parti di Dante. Anni fa imitavo la voce del politico più potente della zona. Quando prenotavamo in pizzeria, se non trovavamo posto, richiamavo spacciandomi per il politico e magicamente il posto usciva. Ugo, poi mi è arrivato un messaggio oggi sul profilo Facebook, è Matteo Caccia, io sono qui, che mi dice: qualche anno fa mi sono spacciata per mia sorella quando ho accompagnato il mio nipotino ad una visita pediatrica. Non ne avevo intenzione, ma poi la pediatra ha dato per scontato che io fossi la madre e così sono stata al gioco. Pronto, Gabriella? Eccomi. Ciao, come stai? Ciao, bene, tu? Bene, bene, grazie. Senti, in quei casi lì, ad esempio, uno non è che lo pensa, giusto? Semplicemente succede che uno dice la parola sbagliata e poi va avanti. Cioè, lei è la madre, certo. Esatto. Cos'è successo, no, poi? No, non mi hanno chiesto neanche se fossi la madre, quindi l'hanno dato per scontato. Io appunto sono stata al gioco e sono andata avanti recitando. A un certo punto ho pensato, forse avrei dovuto dirlo subito che non ero la mamma, quindi mi sembrava troppo tardi per tornare indietro e dirlo, quindi sono andata avanti a soggetto, come si dice. Cioè, scusami, ma ti hanno fatto domande particolari a cui tu hai dovuto rispondere sul tuo figlio che non era tuo figlio, oppure sei riuscita... come sì, all'esame orale dell'università, che insomma, che rimani largo e poi loro vanno al punto. Esatto, ma all'inizio pensavo di non dover dire niente di particolare, poi quando ho iniziato a chiedermi, ma il richiamo del vaccino fatto... come ha reagito al vaccino, io ho detto bene. Beh, certo, ma no, guardi, al vaccino lui è proprio uno che reagisce bene di solito. Senti, ma il nipotino è stato al gioco, Gabriella? Per fortuna giocava, appunto, nel senso che dopo essere stato visitato c'erano dei giochini lì nello studio della pediatra e si è messo a giocare, quindi non ci ha fatto caso. Aveva già 3 anni e mezzo, quasi 4, quindi avrebbe potuto benissimo dire, ma lei non è mia mamma. È stato al suo di gioco più che al tuo, quindi direi. Sì, è stato stesso dal mio di gioco, io avevo il terrore che si girasse, alzasse la testa e dicesse: ma cosa stai dicendo? Ma, però non l'ha fatto. Scusami Gabriella, poi a quel punto la mamma non è più potuta tornarci da sto pediatra? No, si è poi tornata, però figurati, la pediatra non si ricordava, anche perché una pediatra dell'ASL era una visita di bilancio sanitario, queste robe qua che si fanno di routine. Gabriella, cosa fai nella vita tu? Sono un insegnante. Quindi da un punto di vista etico forse potremmo soffermarci. Che insegnante per che cosa? Elementari, medie, superiori? Medie. Quindi sì, ci stai dando un nome falso, Gabriella, in questo momento? No, è il tuo. Il mio no. Gabriella, ti ringrazio. Scusami, chiaramente tua sorella ha saputo tutta la storia? Gliel'hai raccontata? Gliel'ho raccontata e era orgoglioso di me. Immagino. No, nel senso che era stato una cosa improvvisa, mi ha telefonato e mi ha detto che non poteva andarci, quindi che ci sarei andata io. E allo stesso modo tu per impreparazione ti sei finta di essere un'altra persona. Gabriella, ti ringrazio moltissimo, buona giornata. Anche te. Ciao, grazie. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella foto di oggi invece siamo proprio nella vita di qualcuno. Queste sono proprio le foto che preferisco. È quasi sicuramente stata composta questa foto. Cioè è una natura morta ovviamente, ma tutti gli oggetti sono in posa. E ci sono, nell'ordine. Una tazza di tè o di caffè, ma non una tazza qualunque, una tazza di Starbucks. Quindi è stata comprata all'estero o magari è stata comprata online, ma per lo più credo come ricordo di un viaggio da qualche parte, in Europa, negli Stati Uniti o dovunque ci sia Starbucks, non in Italia. C'è poi un libro, che non è un libro qualunque anche questo, perché è un libro in lingua originale, in inglese, ed è Skippy Dies di Paul Murray, che in italiano è tradotto con Skippy muore, una sorta, diceva Tiziano che l'ha letto, di giovane Holden contemporaneo. E poi c'è un lavoro a maglia, tipo il lavoro a maglia della nonna, con degli aghi, con gli aghi da maglia e questa lana, i ferri da maglia, non gli aghi, e questa lana bianca, cruda. E poi ci sono anche poi c'è una tazza, un'altra tazza in cui non so cosa ci sia, e poi delle fotocopie stampate da internet con un'immagine di una donna, potrebbe essere una stilista, insomma non si capisce molto, ma la sfumatura di chi è questa persona la intravediamo. Daniela Bevilacqua, 44 anni, Milano, casa mia un sabato mattina, un libro, caffè e biscotti, il mio adorato lavoro a maglia, il divano e la mia isola, io sono qui. Andate a vedere questa foto, io sono qui. No, io sono qui, radio24.it, alla pagina io sono qui. Magari ho poca fantasia, ma questo è quello che mi immagino quando penso a questa piccola rubrica, quella delle fotografie. Torniamo invece a persone che si sono spacciate per altre persone. Una volta ho fatto parte di una simulazione di tesi che doveva convincere la famiglia di una ragazza che si fosse laureata. Incredibile ma vero. Ne sono uscito un po' schifato. Mario, cos'è una simulazione di tesi? Cioè, ma proprio col professore? Una simulazione? Ma no, credo proprio che sì, una simulazione di tesi con la commissione, forse, in cui loro fanno finta che questa ragazza sia laureata. Uno spettacolo. Mi sono finta una mia amica che si trovava in Australia per andare a richiedere la borsa di studio per conto suo, con la fotocopia della sua carta d'identità. La foto non mi assomigliava per niente. Questa non l'ho capita invece. Ho usato il mio essere siciliano per salvarmi da delinquenti stranieri. Funziona spesso. Non ho capito, scusami. Cioè, perché se io vado a Rio de Janeiro e dico che sono siciliano, mi lasciano stare invece che derubarmi. Ho firmato per anni gli assegni del conto di mia sorella gestito da cognato. Sono stato per un anno mio cugino arbitro per entrare gratis allo stadio. Per 3 anni ho avuto un cognome diverso sul citofono ed in più per non far capire che vivo da sola e per evitare i rompiballi. Ed uno in più. Ah, ok, cioè due cognomi. Perfetto. E poi ce n'era un'altra che mi piaceva. Questa. Sono stato Ugo Frassinelli per un ubriaco che tormentava un vicino di casa. Mi ha chiesto nome e cognome, gli ho detto Ugo Frassinelli. Poi andiamo invece subito da Luigi da Roma, perché Luigi da Roma ha una di quelle storie che quando lo racconti dici vabbè, questo è un film, e invece no, perché si ha a che fare con dei gemelli, giusto Luigi? Giustissimo, ciao Matteo. Ciao. È una storia, io sono Luigi e mi vero si chiama Paolo. Sì. Noi è molto carina questa cosa, perché 4 anni fa, quasi 4 anni fa, io ci trovavamo per lavoro a Milano, un convegno, e diciamo che lui aveva conosciuto questa ragazza lì insomma, a Milano. Però sì, lei non aveva, diciamo, non pensava che eravamo due gemelli, pensava che, cioè, non vi aveva mai visti insieme. No, pensava poi che eravamo stessa persona, perché poi ci siamo incontrati due o tre volte dentro questo convegno. Poi dopo siamo stati tre giorni, dopo siamo tornati a Roma. Sì. Poi lui è partito per l'America, per New York. Sì. E io un giorno, dato che abito, diciamo, fortunatamente abito a Via Condotti, sì, l'ho incontrata a Via Condotti vicino a un negozio. Mentre scendevo da casa, lei mi fa: ciao Paolo. E io in quel momento ho detto: sì, sono Paolo, ciao. E ci siamo frequentati per un mese, però solo frequentati. Ma poi, scusami, dopo lei... e tu vi siete frequentati sempre con il nome Paolo, come se fossi, sì, tuo fratello? Sì, però lei dopo un po' di giorni ha capito che noi abbiamo una cosa: io sono gay e mio fratello no. E dopo qualche giorno, una settimana, lei aveva capito, insomma, che ero gay, però lei mi ha preso in giro pure lei, perché dopo 25 giorni, un giorno al ristorante mi fa: sai che l'ho capito che tu non sei Paolo? Ho detto: come? Dice: sì. Dice: ma che sei? Dice: sicuramente siete due fratelli, perché hai qualcosa di diverso che Paolo, non aveva. Senti Luigi, sì, com'è finita? Ti ha preso a schiaffi? È finita. Che poi dopo si sono incontrati, perché poi si sono incontrati a Roma, si sono sposati, sono 4 anni che sono sposati, hanno 2 gemelli, 2 maschi, si chiama uno Tonino, lo saluto, e l'altro si chiama Mauro. Guarda Luigi, guarda, io ti devo fermare per 2 motivi, primo perché non ho più tanto tempo per te, e secondo perché ho la sensazione che fosse una bella storia e che tu te la fossi inventata di sana pianta, e anche un pochettino proprio mentre me la stavi raccontando, e l'ho capito quando mi hai detto di 2 gemelli, però va bene lo stesso, perché mi piacciono le storie a metà tra la verità e la finzione. Andiamo da Maria Teresa da Luca. Pronto Maria Teresa? Sì, ciao. Ciao, Matteo. Buongiorno. Ciao. Tu ti sei spacciata per la sorella di Mina? Sì, io devi sapere, ho 59 anni. Sì. Quando ero ragazzina, 15-16 anni, sì, assomigliavo moltissimo alla Mina degli anni, con i capelli cotonati, no? Di quei tempi. Sì. E ero in villeggiatura in vacanza al Lido di Fa Maiore, e avevo ragazzini intorno che mi facevano il filo, e tutti mi dicevano: ma sai che assomigli? Un giorno ho detto: senti, sì, ma sono la sorella di Mina. Senti, ma ci hai guadagnato qualcosa da questa cosa o no, Maria Teresa? Sì, ho guadagnato, nel senso che quando entravo in spiaggia la mattina tutti mi guardavano. Uè, la sorella di Mina. La sorella di Mina, insomma, per la settimana che sono stata in vacanza sono stata felicissima. Perché certo, perché ti coccolavano. Maria Teresa, grazie mille. Ciao, certo, buona giornata. Ciao. Torniamo a Roma da Nicola. Pronto, Nicola? Sì, salve, sono qui. Ciao, senti, io vorrei chiudere proprio oggi con una storia proprio di quelle infime, che uno dice: ma no, non è possibile. E invece tu l'hai fatta, Nicola. Raccontamela. Sì, l'ho fatta, vabbè. Preannuncio, innanzitutto ti faccio i complimenti. Trasmissione, sì, splendida. Ti ringrazio. Nicola, grazie mille. Purtroppo veramente poco tempo. Dimmi. Niente, io ho fatto questa cosa per circa un annetto su uno dei portali più famosi di incontri virtuali in chat, no? Sì. E mi spacciavo per chirurgo plastico... con tutti annessi e connessi, cioè quando cercavano di andare oltre addirittura dicevo che ero il presidente di un consorzio di 12 cliniche. Certo, perché tenere il tiro basso, giusto Nicola? A quel punto tiriamo su. Senti, ma tu lo facevi per abbordare delle donne? Sì, per abbordare. Ma funzionava? Non solo funzionava, ha funzionato tantissimo, e la cosa di cui mi sono sempre chiesto, mi sono sempre sorpreso, è stata: quando incontravo queste persone, nessuna mi ha mai chiesto il tesserino da medico per verificare se era vero, cioè... Vabbè, mi auguro, l'unica cosa, e poi ti saluto, che tu non l'abbia operata, Nicola. No, ma secondo me loro non erano coscienti, era impossibile che la gente cada in queste cose. Nicola, grazie mille, con un po' di cattiveria chiudiamo la settimana oggi. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Non so se Nicola l'ha seguito i consigli di Stanislavski, però visto che si parlava di entrare nei panni di qualcun altro, ho rispolverato dei libri che avevo in casa e che riguardavano uno dei testi cardine degli attori, che è Il lavoro dell'attore sul personaggio di Stanislavski, che poi ha dato vita al famoso metodo Strasberg, che è quello che usano gli attori americani. Il percorso del metodo è teso a sviluppare dentro ad ogni attore quello che Lee Strasberg definiva essere l'indicatore interno della verità della propria esperienza. Il metodo in realtà è tutto ciò che ha fatto, pensato, sperimentato, teorizzato e scritto Stanislavski. Sicuramente lo sviluppo della memoria sensoriale e quindi di quella emotiva, con la sua gerarchia di esercizi, è stata la grande invenzione che ha permesso e permette oggi agli attori allenati di richiamare situazioni ed emozioni così, a comando. Molti attori che pensano che recitare sia correre dietro ai sensi restano bloccati in un mondo fatto di recitazione frustrante e costipata, cercando di sentire a tutti i costi e quindi non sentono nulla. Risultano leziosi e perdono di vista la regola primaria, che è recitare distinto. Tutto il resto fa parte della fase di costruzione della performance, ma deve essere dimenticato nel momento dell'azione. Sicuri che avendolo sperimentato, arriverà e darà un grande contributo di profondità e di verità. Più si cerca e si sperimenta in fase di prova, più si sarà specifici ed efficaci in performance. L'attore del metodo, inoltre, può essere sicuro di non doversi mai piegare al fatto di non sentire nulla dentro. I sensi ci sono sempre e quindi, come minimo, c'è sempre la temperatura dell'aria. Due cose per gli appassionati di Chiedo Asilo. La prima è che tra poco andrà in onda la puntata che non è andata in onda ieri per via della diretta del discorso di Napolitano, che è la puntata speciale sui 150 anni dell'Unità d'Italia. La seconda è che martedì 22 marzo, proprio qui nella sede di Radio 24 in via Montorosa 91, alle 21 andrà in onda una puntata speciale di Chiedo Asilo live. Per prenotarsi, chiedoasilo@radio24.it. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?